caro ascoltatore, che hai avviato questo podcast e avrai l'onore e la fortuna di sentirci parlare dei microservizi. Giusto. Questa prima puntata di una lunga serie è già in programma anche fortunata, ovviamente è già in programma anche la seconda stagione. Sì, ma non vogliamo anticipare troppo. Giusto. Dicevo, questa prima puntata inizierà con un'introduzione sulla progettazione di un microservizio. Abbiamo qua il massimo esperto mondiale. Sì, di microservizi. Sì. Sono esperto un po' in tutte le cose piccole, non soltanto. Bene, cioè, lo sapevo già, ma magari il nostro pubblico no. Ora che hai fatto outing, caro Nicola, sì. Se ci vuoi parlare di che cos'è un microservizio. Sì, oggi volevamo parlare della progettazione di un microservizio. Dovreste trovare le slide da qualche parte. Metteremo in calce nella pagina in cui sì. Ci sarà questo podcast. Oppure magari facciamo un video dove lo mettiamo insieme. Adesso vediamo, insomma, è la prima volta, quindi non abbiamo le idee molto chiare. Comunque, iniziamo a parlare appunto di quali sono gli elementi necessari per progettare un microservizio. La prima cosa che dobbiamo dire forse è il discorso del micro. Sì. Perché è spesso fuorviante, ne abbiamo parlato tante volte. Il nome microservizi è un brand commerciale che è nato semplicemente per staccarsi da SOA, che era il brand commerciale precedente, quello usato dal 2005 in avanti. La terribile SOA, il sex of angel, cioè il parlare di niente, che ha avuto delle ripercussioni, diciamo, drammatiche. Tutti quelli che hanno provato a usarlo sono rimasti fregati per diversi elementi, per cui non si poteva riproporre il nome architettura servizi, anche se lo è. Quindi è uscito poi questo discorso, questo termine abbastanza popolare di microservizi, ma come diciamo sempre tutte le volte che ne parliamo, bisogna fare attenzione perché non necessariamente questi servizi devono essere così micro come si può pensare all'inizio. Anzi, di solito l'approccio iniziale è quello di scomporre un'applicazione in grandi blocchi, in servizi grandi, e poi piano piano, prendendosi confidenza, spaccarlo sempre di più. Ad esempio Real Estate, che è un'azienda australiana, credo, che ha rilasciato molto del suo software relativo ai microservizi, ha spiegato come lo ha adottato, insomma ha raccontato che il primo anno che avevano fatto questa scomposizione a microservizi ne avevano due, quindi non era poi così micro. Però il secondo anno sono arrivati a una decina, adesso credo che siano a 200. Cioè, insomma, all'inizio non bisogna concentrarsi tanto sul discorso del micro, volerlo spezzare, perché a volte nei corsi trovi anche scritto il discorso dei piccoli programmi, i programmi Unix, l'hai letto, ti è capitato? Sì. Che dico, il microservizio è come i piccoli programmi di Unix, devono concentrarsi solo su una sola cosa, farla bene, essere molto piccoli, ma questo è fuorviante. Quindi proprio inizierei spiegando quali sono gli elementi progettuali di un servizio, che sono tre, li vedete nella prima slide, che sono il contesto specifico, che in inglese si chiama binding context, sarebbe la responsabilità del servizio, quello che fa, l'argomento di cui si occupa. Mm-hmm. Per fare un esempio relativo alla didattica potrebbe essere l'anagrafica, il piano di studio, insomma, poi ci ragioniamo sopra meglio. E questo è il primo elemento di un servizio. Il secondo sono le API, cioè le operazioni che offre ai propri client. Queste operazioni spesso comportano il passaggio di dati, questi dati si chiamano modello esterno, quindi il secondo elemento è il modello esterno e le API del quello servizio. Che il servizio fa vedere del suo dominio di competenze, sì, quello proprio che espone di sé. Infine il terzo elemento è il modello interno, questa demarcazione è molto importante, perché un errore tipico che si fa all'inizio è quello di pensare di dover esportare direttamente il modello esterno, interno, invece non è così, cioè esternamente tu tiri fuori qualcosa che rimane tra le altre cose anche fisso, perché è un contratto che tu fai con i tuoi clienti, come vedremo. Invece il modello interno ha una funzionalità diversa, per esempio deve essere veloce a recuperare i dati, può essere più aderente a quello che è la struttura del DB, che so, cioè insomma ha finalità diverse, bisogna averlo subito in chiaro. Mi sembra quasi che ci sia un'analogia con i concetti di classe della programmazione ad oggetti. Infatti sì, è proprio così, infatti lo vedremo, cioè quello che sta succedendo è che noi stiamo riportando a servizi quello che di solito facciamo in una scomposizione per classi, quindi ogni classe può essere pensata come la sua responsabilità, un API, sì. E poi ha la sua implementazione interna, è la rappresentazione interna con i metodi più protetti, più privati, sono dati che non deve mostrare fuori. Infatti hai detto proprio bene, perché l'approccio è esattamente lo stesso e bisogna conservarlo.